Quattordicesima traccia. Non dobbiamo fare gli schizzinosi e chiedere di trovare tutte le virtù per soprammercato. Non potete immaginarvi, Mr. Knightley, che sensazione produrrà la sua venuta? Non ci sarà che un solo argomento per le intere parrocchie di Donwell e di Highbury. Non ci sarà che un solo interesse, un solo oggetto di curiosità. Tutto sarà Mr. Frank Churchill, non penseremo né parleremo d'altro. Mi dispenserete dal rimanere così soggiogato. Se lo trovo di buona conversazione, sarò lieto di aver fatto la sua conoscenza, ma se è solo un bell'imbusto chiacchierone, non occuperò molto del mio tempo o dei miei pensieri. La mia idea di lui è che egli può adattare la sua conversazione al gusto di ciascuno e ha il potere, nonché il desiderio, di riuscire universalmente accetto. A voi parlerà d'agricoltura, a me di disegno, di musica e così via a ciascuno, possedendo quella cultura generale su tutti gli argomenti che gli permetterà di seguire l'iniziativa altrui o di prenderla lui stesso, secondo le convenienze, e di parlare in modo eccellente su ognuno. Ecco l'idea che mi faccio di lui. E la mia, fece Mr. Knightley con calore, è che se egli risulterà essere qualcosa di simile, sarà il più insopportabile individuo sulla terra. Come, a 23 anni, essere re della sua compagnia, il grand'uomo, il politico navigato, che ha da leggere il carattere di tutti e far sì che i talenti di tutti conducano alla messa in mostra della sua propria superiorità. Dispensare intorno le sue adulazioni per far apparire tutti sciocchi in confronto a lui. Mia cara Emma, il vostro buonsenso non potrebbe tollerare un tal vanesio all'atto pratico. Non dirò più nulla di lui, esclamò Emma. Voi volgete tutto in malaparte. Tutte e due abbiamo prevenzioni, voi contro e io in favore di lui. E non abbiamo modo di metterci d'accordo finché non sarà qui. Prevenzioni? Io non ne ho affatto. Ma io sì, e assai, e non me ne vergogno. Il mio affetto per Mr. e Mrs. Weston mi comunica una decisa prevenzione in suo favore. Egli è uno a cui non penso da un capo all'altro dannese, disse Mr. Knightley con una certa irritazione, che fece sì che Emma si mettesse subito a parlare d'altro, sebbene non riuscisse a capire perché egli dovesse adirarsi. Pigliare a noi un giovanotto, solo perché sembrava d'indole diversa dalla propria, era indegno della vera liberalità d'animo che essa era solita riconoscergli, perché con tutta l'alta opinione che egli aveva di sé, che essa gli aveva spesso rimproverato, non aveva mai prima supposto un solo istante che potesse renderlo ingiusto verso i meriti altrui. Emma e Harriet avevano passeggiato assieme una mattina e, a opinione di Emma, avevano parlato abbastanza di Mr. Elton per quel giorno. Essa non poteva pensare che il conforto di Harriet o i suoi propri peccati richiedessero di più. Perciò si ingegnava di liberarsi dell'argomento mentre tornavano, ma quello saltò su di nuovo proprio quando essa credeva d'esserci riuscita, e dopo aver parlato per un po' di quelle che devono essere le sofferenze dei poveri d'inverno, senza ricevere altra risposta che un lamentoso «Mr. Elton è così buono coi poveri», vide che bisognava ricorrere ad altro. Stavano avvicinandosi alla casa dove abitavano Mrs. e Miss Bates. Emma decise di visitarle e di cercare la salvezza in un gruppo di persone. Per una tal cortesia non mancavano mai le ragioni. Mrs. e Miss Bates amavano ricevere visite ed essa sapeva che dai pochissimi che presumevano di trovare in lei imperfezioni era considerata piuttosto negligente sotto quel rispetto, poco proclive a contribuire quanto avrebbe dovuto per aumentare il numero delle loro scarse distrazioni. Aveva avuto molti accenni da parte di Mr. Knightley e alcuni dal suo stesso cuore a questa sua manchevolezza, ma nessun accenno era stato capace di vincere la persuasione che si trattava di cosa molto sgradevole. Una perdita di tempo, donne noiose, e tutto l'orrore di correre il pericolo di imbattersi nelle mezze calzette di Ivory, che non finivano mai di far visita alle Bates, per cui Emma di rado s'accostava a loro. Ma ora prese la subitanea risoluzione di non passare dinanzi alla loro porta senza entrare, osservando, mentre proponeva la cosa ad Harriet, che secondo i migliori calcoli, proprio ora erano assolutamente al riparo da una lettera di Jane Fairfax. La casa apparteneva a gente negli affari. Mrs. e Miss Bates occupavano il primo piano, e lì, nell'appartamento di proporzioni assai modeste, che per loro era tutto, le visitatrici furono ricevute molto cordialmente e perfino con gratitudine. La linda e pacifica vecchia signora, che con la sua calza era seduta nel cantuccio più caldo, voleva perfino cedere il posto a Miss Woodhouse, e la figlia, più attiva e chiacchierona, era quasi in procinto di sopraffarle con premure e cortesie, ringraziamenti per la visita, sollecitudine per le loro scarpe, ansiose domande circa la salute di Mr. Woodhouse, giulive notizie intorno a quella della madre e torta zuccherata dal buffet. Mrs. Cole era stata lì un momento prima per una visitina di 10 minuti e aveva avuto la bontà di rimanere con loro per un'ora e aveva preso un pezzo di torta e aveva avuto la gentilezza di dire che le piaceva molto, per cui sperava che Miss Woodhouse e Miss Smith avrebbero fatto loro il favore di mangiarne un pezzo anch'esse. Nominati Cole, si poteva star certi che sarebbe seguito il nome di Mr. Elton. C'era intimità tra loro e Mr. Cole aveva avuto notizie da Mr. Elton dopo la sua partenza. Emma sapeva che cosa stava avvenendo. Esse dovettero riesaminare la lettera e stabilire quanto tempo era stato via e quanto era impegnato in società, e che simpatie riscuoteva ovunque andasse, e come era stato gremito il ballo del maestro delle cerimonie. Ed Emma riuscì a cavarsela bene facendo mostra di tutto l'interesse e di tutto l'elogio che poteva richiedersi, e sempre facendosi avanti lei per evitare che Harriet fosse obbligata a dire una parola. A questo era preparata entrando in quella casa, ma intendeva, una volta discusso Mr. Elton ben bene, di non essere disturbata più oltre da altri argomenti penosi e di spaziare fra tutte le signore e le signorine di Highbury e le loro partite a carte. Non era preparata a vedere Jane Fairfax succedere a Mr. Elton, ma egli venne effettivamente allontanato in fretta da Miss Bates, che alla fine saltò bruscamente ai Cole per introdurre una lettera della nipote. «Oh già, Mr. Elton, ho capito. Certo, quanto a ballare. Mrs. Cole mi stava dicendo che il ballo nel ridotto di Bath fu... Mrs. Cole ha avuto la bontà di intrattenersi con noi un po' di tempo a parlare di Jane, perché appena entrata ha incominciato a chiedere di lei. Jane riesce tanto simpatica là. Ogni qualvolta si trova da noi, Mrs. Cole non sa come mostrare abbastanza la sua gentilezza, e devo dire che Jane la merita come pochi altri. E così ha cominciato a chiedere direttamente di lei dicendo: «So che non potete aver avuto notizie recenti da Jane, perché non tocca a lei di scrivere». E quando io ho detto subito: «Ma sì che le abbiamo avute, abbiamo ricevuto una lettera proprio stamani». Non credo d'aver mai visto nessuno così sorpreso. «Davvero? Parola d'onore», ha fatto lei. «Beh, questa è proprio in attesa. Sentiamo un po' che cosa dice». La cortesia di Emma fu subito pronta a dire, con sorridente interesse: «Avete avuto notizie tanto recenti da Miss Fairfax? Come ne sono lieta, spero che stia bene». «Grazie, come siete buona», rispose la zia, felicemente ingannata, mentre frugava animatamente per trovare la lettera. «Oh, eccola! Ero sicura che non poteva essere lontana. Ma ci avevo messo sopra il mio astuccio da lavoro, vedete, senza accorgermene. Così era rimasta proprio nascosta, ma l'avevo in mano un momento fa ed ero quasi sicura che fosse sul tavolo. L'ho letta a Mrs. Cole e dopo che lei fu partita l'ho letta di nuovo a mia madre, perché è un tal piacere per lei una lettera di Jane che non si sazia mai di starla a sentire. Così sapevo che non poteva essere lontana. E infatti, eccola qui, solo nascosta dall'astuccio. E dal momento che siete così cortese da desiderare di sentire quel che dice, ma prima di tutto devo proprio, per non far torto a Jane, scusarla d'aver scritto una lettera così breve, 2 pagine solo, vedete, siano 2, e di solito riempie l'intero foglio e per metà ci scrive anche di traverso. La mamma spesso si meraviglia che io possa decifrarlo così bene. Spesso dice appena aperta la lettera: «Ebbene, Etty, ora mi immagino che dovrai alloverarti a decifrare tutto quel reticolato». «Non è vero, mamma?» E allora io le dico che sono sicura che riuscirebbe a decifrarlo lei stessa, se non avesse nessuno a farlo per lei. Ogni parola son certa che ci aguzzerebbe gli occhi sopra finché non avesse decifrato ogni parola. E invero, benché gli occhi della mamma non siano buoni come una volta, può vederci ancora in modo sorprendente, grazie a Dio, con l'aiuto delle lenti. È proprio una benedizione. Gli occhi di mamma sono davvero eccellenti. James vuol dire quando è qui: «Sono sicura, nonna, che devi aver avuto degli occhi buonissimi per vederci come ci vedi, e hai fatto tanti bei lavori. Vorrei solo che i miei occhi mi durassero altrettanto bene». Tutto questo, detto con estrema rapidità, obbligò Miss Bates a fermarsi per prendere fiato, e Dem disse qualcosa di molto affabile sull'eccellenza della calligrafia di Miss Fairfax. «Siete proprio gentile», rispose Miss Bates, molto lusingata. «Voi che siete un tal giudice e scrivete così bene voi stessa, sono sicura che nessun'altra lode potrebbe farci tanto piacere come quella di Miss Woodhouse. La mamma non sente, è già un po' sorda, sapete». Poi, rivolgendosi a lei: «Mamma, senti qualche Miss Woodhouse è così buona da dire sulla calligrafia di Jane?» Ed Emma ebbe il beneficio di dire il proprio sciocco complimento ripetuto due volte prima che la buona signora potesse comprenderlo. Meditava intanto sulla possibilità, senza sembrare troppo scortese, di scappare dalla lettera di Jane Fairfax e aveva deciso di andare senz'altro via in fretta con qualche futile pretesto, quando Miss Bates si rivolse a lei di nuovo e la obbligò a prestarle attenzione. «La sordità di mia mamma è molto lieta, vedete, non è nulla proprio. Basta che io alzi la voce e ripeto una cosa due o tre volte e ci sente di sicuro, ma d'altronde è abituata alla mia voce. Ma è molto degno di nota che debba sempre intendere Jane meglio di me. Jane parla così distintamente, però non troverà la nonna più sorda di 2 anni fa, che è a dir parecchio all'età di mia madre, e realmente sono 2 anni, sapete, da che è stata qui. Non siamo mai state tanto senza vederlo, e come prima dicevo a Mrs. Cole, non sapremo ora come farle abbastanza festa. Aspettate Mir Fairfax presto? Oh sì, la settimana prossima. Davvero? Deve essere un gran piacere. Grazie, siete molto buona. Sì, la settimana prossima. Tutti sono così sorpresi e tutti dicono le stesse cose gentili. Sono sicura che lei sarà così felice di vedere i suoi amici di Highbury come lo possono essere loro di vedere lei. Sì, venerdì o sabato, non può dire quale dei 2 giorni, perché il colonnello Campbell avrà bisogno della vettura lui stesso uno di questi giorni. Sono così buoni a mandarla per tutto il percorso. Ma fanno sempre così, sapete. Oh sì, venerdì o sabato prossimo. È di questo che scrive. Questa è la ragione perché scrive fuori di regola, come noi diciamo, perché secondo l'andazzo ordinario non avremmo dovuto ricevere lettere da lei prima di martedì o mercoledì prossimo. Già, così mi immaginavo. Temevo che sarebbe stato improbabile che io avessi quest'oggi notizie di Miss Fairfax. Siete così gentile? No, non avremmo avuto notizie se non fosse stato per questa circostanza speciale della sua imminente venuta qui. Mia madre è così felice perché resterà con noi almeno 3 mesi. 3 mesi, dice proprio così, come ora avrò il piacere di leggervi. Capita, vedete, che i Campbell se ne vanno in Irlanda. Mrs. Dixon ha persuaso il padre e la madre a recarsi là a vederla immediatamente. Non avevano intenzione d'andar prima d'estate, ma lei è così impaziente di vederli di nuovo perché, fin quando non si è sposata l'ottobre scorso, essa non è mai stata lontana da loro neanche una settimana, e questo deve far sembrare molto strano trovarsi in 2 regni diversi, stavo per dire, ma in ogni modo paesi diversi. Così essa ha scritto una lettera urgentissima alla madre, o al padre, confesso di non sapere a chi, ma lo vedremo ora dalla lettera di Jane, ha scritto in nome di Mr. Dixon e nel proprio per sollecitarli a venire immediatamente e avrebbero dato loro appuntamento a Dublino e li avrebbero condotti alla loro villa, Ballycraig, un posto magnifico, mi immagino. Jane ha sentito parlare assai della sua bellezza, voglio dire da Mr. Dixon, non credo che ne abbia sentito mai parlare da altri. Ma era molto naturale, sapete, che a lui piacesse di parlare del suo posto mentre faceva la corte. E siccome Jane molto spesso soleva uscire a passeggio con loro, perché il colonnello e Mrs. Campbell ci tenevano molto che la loro figlia non andasse a passeggi sovente con Mr. Dixon solo, e di questo non li biasimo davvero. Naturalmente sentiva tutto quello che egli poteva dire a Miss Campbell della sua casa in Irlanda, e credo che lei ci scrisse che egli aveva mostrato loro dei disegni del posto, delle vedute che aveva preso lui stesso. È un giovane molto amabile e affascinante, credo. Le sue parole hanno dato a Jane una gran voglia di andare in Irlanda. A questo punto, entrando nella testa di Emma un sospetto ingegnoso e stuzzicante nei confronti di Jane Fairfax, di questo affascinante Mr. Dixon e del mancato viaggio in Irlanda, essa disse, con l'insidioso scopo di scoprire dell'altro: «Deve sembrarvi una gran fortuna che Miss Fairfax abbia il permesso di venire da voi in questa circostanza. Considerando la speciale amicizia di lei con Mrs. Dixon, non vi sareste davvero attese che venisse dispensata dall'accompagnare il colonnello e Mrs. Campbell?» Proprio così davvero. Proprio la cosa di cui abbiamo sempre avuto piuttosto timore, perché non ci sarebbe piaciuto di averla così distante da noi per dei mesi, nell'impossibilità di venire se accadesse qualcosa. Ma vedete, ogni cosa volge al meglio. I Dixon desiderano immensamente che Jane vada in Irlanda col colonnello e Mrs. Campbell. Proprio ci contano. Nulla potrebbe essere più gentile o pressante del loro duplice invito, dice Jane, come sentirete tra un momento. Mr. Dixon non sembra punto tiepido nelle sue premure. È un giovanotto proprio affascinante. Da quando egli rese a Jane quel servizio a Weymouth, quando erano usciti per quella gita in barca, ed essa, per l'improvviso rivoltarsi di non so più che tra le vele, sarebbe stata immediatamente scaraventata in mare, anzi fu proprio lì per esserlo, se egli, con la sua più gran presenza di spirito, non l'avesse afferrata per il vestito. Non posso mai pensarci senza tremare. Ma da quando abbiamo sentito la storia di quel giorno, ho voluto così bene a Mr. Dixon. Ma nonostante tutta l'insistenza dell'amica e il suo desiderio di vedere l'Irlanda, Miss Fairfax preferisce dedicare il suo tempo a voi e a Mrs. Bates? Già, così preferisce lei, è interamente colpa sua. E il colonnello e Mrs. Campbell pensano che faccia benissimo, proprio quel che raccomanderebbero loro stessi. E invero è loro speciale desiderio che essa provi l'aria natia, perché di recente non si è sentita proprio bene. Mi dispiace di sentire questo. Penso che essi giudichino rettamente, ma Mrs. Dixon deve restarne molto delusa. Mrs. Dixon, a quel che intendo, non si segnala per bellezza fisica. Non può essere affatto paragonata con Miss Fairfax. Oh no, siete molto buona a dire queste cose, ma certo no, non c'è paragone tra loro due. Miss Campbell fu sempre priva d'ogni avvenenza, ma estremamente elegante ed amabile. Già, è naturale. Jane prese un brutto raffreddore, poverina, un bel po' di tempo fa, il 7 di novembre, come ora vi leggerò, e da allora non si è sentita più bene. È un bel po' di tempo, no, per gli strascichi di un'infreddatura. Non ne aveva parlato prima perché non voleva allarmarci, è fatta così, così piena di riguardi. Ma insomma, si sente così poco bene che i suoi buoni amici, Campbell, pensano che farebbe meglio a tornare a casa e a cercare un'aria che le giovi, e non dubitano che 3 o 4 mesi a Highbury la faranno ristabilire del tutto. E certo è assai meglio che venga qui anziché andare in Irlanda se non si sente bene. Nessuno potrebbe curarla come noi. Mi sembra che non si sarebbe potuto desiderare una combinazione migliore. E così verrà da noi venerdì o sabato, e i Campbell lasciano Londra per imbarcarsi a Holyhead il lunedì seguente, come sentirete dalla lettera di Jane. Così tutto a un tratto. Potete indovinare, cara Miss Woodhouse, in che agitazione m'ha messa. Se non fosse per l'inconveniente della sua indisposizione, ma ho paura che dobbiamo aspettarti di trovarla dimagrata e molto giù. Devo dirvi a tale proposito che disgrazia mi è accaduta. Seguo sempre il principio di leggere prima da sola le lettere di Jane, prima di leggere ad alta voce alla mamma, sapete, per timore che ci sia in esse qualcosa che possa affliggerla. Jane mi pregò di fare così, e così io faccio sempre. E così ho cominciato oggi con la mia precauzione consueta. Ma appena sono arrivata al punto dove dice di non star bene, mi sono lasciato sfuggire tutta spaventata un «Dio mio, la povera Jane sta male!» che mamma, che stava allerta, ha udito distintamente e ne è rimasta dolorosamente allarmata. Tuttavia, seguitando a leggere, ho visto che la cosa non era così seria come m'ero immaginata da prima. E ora con lei mostro di farci tanto poco caso che essa non ci pensa molto. Ma non so immaginarmi come ho potuto essere così distratta. Se Jane non si rimette presto, chiameremo Mr. Perry. Non baderemo a spese. E sebbene gli sia così generoso e voglia tanto bene a Jane, che scommetto non vorrebbe alcun compenso per le sue prestazioni, noi non potremmo permetterlo, sapete. Ha da mantenere moglie e famiglia e non può buttar via il suo tempo. Ecco, ora che vi ho accennato a quel che scrive Jane, prenderemo la lettera e sono sicura che lei narra la sua storia assai meglio di quanto non possa ripetervela io. «Temo che dobbiamo scappare», disse Emma dando un'occhiata a Harriet e facendo l'atto di alzarsi. «Mio padre ci sta aspettando. Non avevo intenzione, non credevo di poter rimanere più di 5 minuti quando sono entrata». Volevo far solo una capatina per non passare dinanzi alla porta senza chiedere notizia di Mrs. Bates, ma sono stata trattenuta così piacevolmente. Adesso però dobbiamo augurare il buongiorno a voi e a Mrs. Bates. E ogni tentativo di trattenerla fu vano. Emma riguadagnò la strada, stimandosi fortunata, perché, sebbene costretta a subire molto contro la sua volontà, sebbene di fatto avesse appreso l'intero contenuto della lettera di Jane e Fairfax, era riuscita a evitare la lettera stessa. Jane Fairfax era un'orfana, figlia unica della figlia di me minore di Mrs. Bates. Il matrimonio del tenente Fairfax del reggimento di fanteria con Miss Jane Bates aveva avuto il suo momento di fame e di piacere, di speranza e di interesse. Ma adesso nulla ne rimaneva, eccetto il melanconico ricordo di lui morto in combattimento all'estero, della sua vedova che poco dopo si spense di consunzione di dolore, e questa ragazza. Per nascita essa apparteneva a Highbury, e quando all'età di 3 anni, perduta la madre, divenne la proprietà, la pupilla, la consolazione, la cocca della nonna e della zia, era parso che secondo ogni probabilità si sarebbe fissata lì per sempre. Avrebbe ricevuto l'istruzione che potevano procurarle mezzi molto limitati e sarebbe cresciuta senza che vantaggi di ambiente o di educazione venissero a innestarsi in ciò che le aveva dato la natura, e cioè una figura gradevole, una buona intelligenza e parenti ben disposti e di cuore. Ma i sensi di pietà ad un amico del padre produssero un mutamento nel suo destino. Era questi il colonnello Campbell, che aveva avuto una grande stima di Fairfax, come di un eccellente ufficiale ed un giovane di gran merito, e in seguito gli era stato debitore di tante cure durante una grave febbre tifoidea, che egli credeva gli avessero salvato la vita. Questi erano titoli di riconoscenza che egli non riuscì a dimenticare, sebbene dalla morte del povero Fairfax passassero alcuni anni prima che il suo ritorno in Inghilterra gli desse potere di fare qualcosa. Quando tornò, cercò la bambina e si interessò a lei. Egli era ammogliato, con un solo figlio vivente, una bambina pressappoco dell'età di Jane. E Jane diventò la loro ospite, facendo presso di loro lunghi soggiorni e guadagnandosi il favore di tutti. E prima che ella avesse 9 anni, il grande affetto che per lei nutriva la figlia e il suo proprio desiderio di essere un vero amico si combinarono nel produrre da parte del colonnello Campbell un'offerta di prendere su di sé l'intera responsabilità della sua educazione. L'offerta venne accettata e da quell'epoca Jane era appartenuta alla famiglia del colonnello Campbell ed era vissuta interamente con loro, solo di tanto in tanto recandosi a visitare la nonna. Il progetto era che ella venisse istruita ad allevare altri, che le ben poche centinaia di sterline che essa aveva ereditato dal padre non le rendevano possibile d'essere indipendente. Provvedere per lei diversamente non era in potere del colonnello Campbell, che, sebbene il suo reddito per lo stipendio e gli emolumenti fosse cospicuo, il suo patrimonio era modesto e doveva appartenere tutto alla figlia. Ma, dandole un'educazione, egli sperava di fornirle i mezzi di vivere in modo rispettabile in seguito. Tale era la storia di Jane Fairfax. Era caduta in buone mani, non aveva conosciuto altro che bontà da parte dei Campbell e aveva ricevuto un'eccellente educazione. Vivendo costantemente con gente retta e colta, il suo cuore e il suo intelletto avevano ricevuto ogni beneficio della disciplina e della cultura. E poiché la residenza del colonnello Campbell era Londra, ogni più piccolo talento che essa possedeva era stato messo in valore grazie alla guida di maestri di prim'ordine. Le sue disposizioni e abilità erano del pari degne di quanto l'amicizia poteva fare, e a 18 o 19 anni essa era, per quel che si precoce età possa ritenersi adatta a prender cura di bambini, pienamente competente lei stessa per l'ufficio d'educatrice. Ma troppo l'amavano per separarsi da lei. Né il padre né la madre potevano sollecitare ciò, né la figlia poteva tollerarlo. Il brutto giorno della separazione fu rimandato. Era agevole decidere che essa era ancora troppo giovane, e Jane rimase con loro a dividere, come un'altra figlia, tutti i piaceri intellettuali di una società elegante e una giudiziosa mescolanza di vita domestica e di divertimenti, col solo svantaggio del futuro. I moniti moderatori del suo buon intelletto ricordandole che tutto ciò avrebbe potuto finire ben presto. L'affetto di tutta la famiglia, in particolare il caldo attaccamento di Miss Campbell, faceva tanto più onore a costoro in quanto Jane era decisamente superiore in bellezza e in cultura. La superiorità che la natura le aveva dato nei lineamenti non poteva passare inosservata alla giovane Campbell, né ai genitori potevano non sentire le maggiori doti mentali di Jane. Tuttavia seguitarono a tenerla con non diminuito riguardo fino al matrimonio di Miss Campbell, la quale, grazie a quel caso, a quella fortuna che così spesso sfidi pronostici nelle faccende matrimoniali, conferendo attrattiva a ciò che è modesto anziché a ciò che è superiore, si guadagnò l'affetto di Mr. Dixon, un giovane ricco e piacevole, quasi subito dopo che si furono conosciuti, e si sistemò convenientemente e felicemente, mentre Jane Fairfax aveva ancora da guadagnarsi il pane. Questo avvenimento aveva avuto luogo molto di recente, troppo di recente perché la meno fortunata delle due amiche avesse già tentato qualcosa per entrare nel suo sentiero del dovere, sebbene avesse ora raggiunto l'età che il suo proprio giudizio aveva fissato per cominciare. Da un pezzo aveva deciso che il 21° anno avrebbe dovuto segnare tale principio. Con la fortezza d'un novizio religioso aveva deciso di compiere il sacrificio a 21 anni e di ritirarsi da tutti i piaceri della vita, del commercio intellettuale, della società degli uguali, della pace e della speranza, a una penitenza e mortificazioni perenni. Il buon senso del colonnello e di Mrs. Campbell non potevano opporsi a una tale risoluzione, sebbene vi si opponessero i loro sentimenti. Finché vivevano loro, Jane non avrebbe avuto da affaticarsi. La loro casa avrebbe potuto essere la sua per sempre e per il loro proprio benessere avrebbero voluto tenerla con sé interamente, ma ciò sarebbe stato egoismo. Quel che doveva accadere alla fine era meglio che accadesse presto.